Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 20 febbraio, il sole in regione è sorto alle 7.03, tramonterà alle 17.40, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. La sostenibilità in viticoltura, tema da anni ormai in primo piano anche nella cronaca, è al centro dell'approfondimento di oggi, con particolare attenzione alle nuove direttive arrivate dall'Europa. Il tabacco e le sue funzioni sociali sono invece al centro della storia che ci racconta Angelo Floramo. A seguire la rubrica delle normative con le novità della PAC in tema di condizionalità rafforzata. Tra gli alberi da frutto non possiamo dimenticare il gelso con le sue more, mentre nella rubrica delle api oggi prima puntata dedicata al miele. Quali sono gli accorgimenti per non danneggiarli e invece al centro del contributo che dedichiamo agli alberi? In chiusura di puntata, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana e il proverbio friulano. Da qualche tempo si è affermato con evidenza il tema della sostenibilità anche in viticoltura, tema che affronta oggi negli approfondimenti che dedichiamo al settore il professor Enrico Peterlunga. Di fronte al forte impatto ambientale dell'agricoltura e della viticoltura più in particolare, e considerando il cambio climatico in atto, l'Europa ha deciso, dopo lunghe discussioni, di adottare una strategia che è stata definita dal produttore al consumatore, in inglese Farm to Fork. Tale strategia prevede che entro il 2030 dobbiamo ridurre i fertilizzanti del 20%, i pesticidi chimici del 50%, così come altrettanto gli antibiotici negli allevamenti, e incrementare la superficie coltivata con metodo biologico fino al 25%. Per quanto riguarda i fertilizzanti in viticoltura, quelli di sintesi chimica vengono già usati in misura inferiore rispetto ai decenni passati. I fertilizzanti organici vengono usati maggiormente e questo va appunto nella direzione di una maggiore sostenibilità. Per la difesa da funghi e da insetti, la riduzione dei pesticidi implica un miglioramento del monitoraggio delle piante e dei patogeni o dei parassiti. Tale riduzione può essere ottenuta con una migliore e più precisa conoscenza dei cicli vitali degli organismi dannosi. Due parole sul problema del rame. Il rame serve, come si sa, per combattere la peronospora e anche altri funghi patogeni. È un metallo che si accumula nel terreno. Per l'uomo non è molto tossico e, a differenza del piombo, non viene accumulato nei tessuti, viene metabolizzato. Ma nel terreno, invece, il suo accumulo danneggia funghi e batteri che sono indispensabili per la fertilità del suolo. Dunque è necessario ridurlo. Tuttavia, in tempi più recenti si sono studiate e messe a disposizione dei viticoltori delle sostanze in grado di stimolare le difese naturali delle piante. Esse sono estratti di alghe, ma anche sostanze quali la chitina o chitosano, che provengono dall'esoscheletro di insetti o crostacei. Tali sostanze applicate alle piante aumentano la loro possibilità di difendersi dai patogeni, contribuendo così a ridurre le necessità di rame. Per la difesa dagli insetti si può usare la confusione sessuale, ovvero spargere nel vigneto quantità elevate dell'ormone sessuale che permette, in particolare per i lepidotteri, al maschio di trovare la femmina per l'accoppiamento. In presenza di questo odore sovrabbondante il maschio non trova la femmina, l'accoppiamento non avviene e la fertilità dell'insetto cala drasticamente. Il metodo biologico che migliora la sostenibilità si sta espandendo anche in viticoltura. A livello italiano è arrivato al 15% della superficie dei vigneti. In regione siamo al 10%, ma le superfici a vigneto biologico sono in espansione. La strategia europea di riduzione di fertilizzanti e pesticidi, peraltro, si applica, è utile ricordarlo, a tutta la viticoltura, non solo alla viticoltura biologica, ma anche alla viticoltura convenzionale. Per quanto riguarda il metodo biodinamico, la produttività bassa e l'attenzione ai ritmi della pianta permettono di ottenere prodotti enologici validi, ma bisogna precisare che considerare come efficaci e determinanti procedimenti parascientifici non è accettabile e fa parte della cultura antiscientifica purtroppo molto diffusa ancora nel nostro paese. Il metodo biodinamico non è stato accettato dalla Società Scientifica di Agricoltura italiana. Un altro elemento che consente di migliorare la sostenibilità è l'utilizzo delle varietà resistenti, selezionate proprio per questo scopo. L'Unione Europea ha deciso recentemente, 6 dicembre 2021, che le varietà resistenti possono essere inserite nei disciplinari dei vini a denominazione di origine DOC, IGT o DOCG. In questa direzione è necessario andare. L'obiezione che, cambiando leggermente i genotipi, si può perdere l'identità del territorio non è corretta. L'identità del territorio verrà mantenuta anche con le nuove varietà, poiché si venderanno come vino di questo territorio, come vino friulano. Nella comunicazione commerciale dovrà essere prioritaria appunto la comunicazione del territorio, vino del Friuli. Gli studi economici segnalano che le preferenze dei consumatori vanno nell'ordine a vini con minori trattamenti antiparassitari provenienti da un territorio specifico e infine ottenuti con una certa varietà. L'agricoltura tradizionale o convenzionale, con trattamenti sovrabbondanti per precauzione eccessiva, concimazioni esagerate per rincorrere una produttività troppo spinta, già da ora non è più possibile. La direttiva dal produttore al consumatore prevede che tutti si orientino a ridurre l'impatto ambientale. Questo si potrà tuttavia ottenere con un atteggiamento responsabile da parte di tutti gli operatori. Non possiamo poi delegare questo solo all'azione della repressione frodi che peschi i furbetti o gli indisciplinati, piuttosto la coscienza di essere tutti legati nella tutela dell'ambiente in cui viviamo dà a tutti la responsabilità, e nei viticoltori friulani si sta facendo avanti questa idea e questo cambio di atteggiamento. Il tabacco e il suo utilizzo affonda le sue radici anche nella società agraria friulana, dove ha avuto ruoli ben determinati, che ci racconta nella sua storia di oggi Angelo Floramo. La macuba è un insetto del salice. Il suo nome scientifico è Cerambix muscatus. I vecchi lo tenevano dentro le tabacchiere perché sprigionava un odore di muschio e di rose che permetteva di profumare il tabacco dei poveracci. Così una sigaretta rollata su quelle foglie trinciate veniva chiamata in lingua friulana macubin. Mettere il naso nella storia del tabacco in Friuli può regalare scoperte piene di sorprese. Nel secolo XVII masticare il tabacco, aspirarlo con il naso o fumarlo dentro il fornelletto di una pipa di legno, o ancora avvoltolarne le foglie seccate su se stesse, gustandolo piano in bocca, divenne una pratica estremamente popolare, che anche in questo caso rispettava rigorosamente le gerarchie sociali. I nobili lo sniffavano, gli intellettuali lo pipavano e i poveracci lo masticavano, forse anche per riempirsi la bocca di qualcosa, dimenticando per un po' i morsi della fame. Venezia, che da brava ruffiana sapeva cogliere ogni occasione di guadagno, fece di tutto per diffondere la moda del tabacco, chiamato all'epoca erba regina, e si impegnò in tutti i territori soggetti alla sua giurisdizione, imponendo poi le tasse del monopolio. I territori della patria del Friuli, soggetti alla Serenissima, vista la complicata geografia della rete di confini che li attraversava, si prestavano meravigliosamente bene a contrastare i controlli fiscali, così che dalla seconda metà del Settecento i friulani si inventarono una forma tutta speciale di resistenza contro la dominazione veneziana. Divennero contrabbandieri di tabacco. Nei secoli la coltivazione sistematica di questa foglia rappresentò una vera e propria rivoluzione sociale e culturale. Sotto il Regno d'Italia, per ottenere il permesso di coltivazione, era necessario dimostrare di essere proprietari terrieri. Qualche famiglia pensò così di organizzarsi in forma cooperativa. Questo segnò il superamento della mezzadria tradizionale. I contadini diventavano soci di un'impresa, dove furono specialmente le donne a trovare impiego, e in tal modo si emanciparono dalla struttura atavica della famiglia patriarcale friulana, guadagnandosi da sole anche i soldi per la dote. Gerla in spalla e pipa in bocca, le friulane divennero le nuove icone di un lavoro indipendente, fondato sulla capacità di resistere e sulla forza di volontà. Negli anni 50 le donne, impiegate nella produzione del famoso nostrano del Brenta, nei territori del Medio Friuli, erano oltre 6.000 e il loro riscatto non fu solamente fumo negli occhi. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, riprendiamo il tema della futura PAC. In particolare vediamo cosa cambia in materia di condizionalità. La condizionalità è costituita dai criteri di gestione obbligatori e da buone condizioni agronomiche ambientali. In pratica tutta una serie di obblighi e divieti che l'agricoltore deve rispettare per poter beneficiare dei pagamenti della PAC, pena decurtazione degli aiuti fino alla loro totale revoca in base alla gravità delle violazioni. Si va dal rispetto delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua, alla corretta gestione degli effluenti zootecnici, al rispetto delle norme di utilizzo sugli antiparassitari, al mantenimento di uno standard minimo di benessere animale negli allevamenti. Cosa cambierà con la programmazione 23-27? Il 1 gennaio 2023 entrerà in vigore la cosiddetta condizionalità rafforzata, che contiene anche nuovi impegni nel verso della sostenibilità ambientale che caratterizza la nuova PAC. Di fatto, tutte le pratiche che oggi sono previste nel greening, cioè in quei pagamenti aggiuntivi che rappresentano circa il 30% dei pagamenti diretti, diventeranno un obbligo senza però alcun beneficio economico collegato. Facciamo un paio di esempi allora. Per esempio l'obbligo di mantenere almeno il 5% di superficie a prato permanente sul totale della superficie agricola utilizzata e l'obbligo di richiedere l'autorizzazione nel caso di conversione in seminativo. Oppure l'obbligo di mantenere una certa percentuale di superfici improduttive, le cosiddette EFA, Ecological Focus Area, ai fini della protezione di specie selvatiche per il mantenimento della biodiversità. E a proposito di diversificazione culturale? Nell'attuale greening, a seconda della dimensione aziendale, bisogna assicurare che la superficie a seminativo venga coltivata con almeno 2 o 3 specie vegetali diverse. Ma nulla si dice a proposito della successione. Invece, nella condizionalità rafforzata, salvo poche e circostanziate deroghe, ritorna il concetto di rotazione colturale, ovvero l'obbligo di cambio coltura almeno una volta all'anno nell'ambito della medesima parcella agricola. In pratica, dal 1 gennaio 2023, il pagamento della PAC sarà incompatibile con la monosuccessione. Tra le piante da frutto che possiamo trovare anche qui da noi c'è anche il gelso con le sue more. La scheda è del professor Raffaele Testolin. Il gelso non è spontaneo da noi, ma lo conosciamo da quando l'abbiamo introdotto dall'Asia a partire dal 1400 per alimentare i bacchi da seta. Dopo un ritorno di fiamma agli inizi dell'Ottocento, quando lo Zanon rilanciò l'allevamento come fonte di reddito per le famiglie contadine, il bacco da seta è caduto in disuso e con lui il gelso. Un progetto finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale prevede la reintroduzione dell'allevamento in Friuli e il riuso del gelso. Esistono 2 varianti, il gelso bianco e il gelso nero. Il primo era tipicamente usato per l'alimentazione dei bacchi da seta e spesso non si vedevano i frutti a causa delle drastiche potature che subiva l'albero, al quale venivano tolti i rami con le foglie destinate all'alimentazione del nobile bruco. Il secondo, meno interessante per la bachicoltura, produce dei frutti neri, chiamate more. Tecnicamente il frutto è un sorosio, cioè un frutto composito fatto di piccole bacche. Questi frutti neri erano destinati alla produzione di confetture, succhi, sciroppi ed altri prodotti trasformati. Se poi l'idea di produrre succhi e confetture non vi convince, leggete la letteratura e troverete che non c'è malattia umana che non venga contrastata da prodotti a base di frutti, foglie, corteccia e radici del povero gelso. Il gelso è pianta rustica, si adatta a tutti i tipi di terreno. Esistono piante maschili e piante femminili e per produrre frutti è necessario acquistare queste ultime. Tutti abbiamo negli occhi i bellissimi filari di gelso capitozzati lungo le vie di accesso alle dimore rustiche padronali in Friuli. ma provate a coltivarlo a cespuglio, dando alla pianta lo spazio necessario alla sua grande vigoria. Vedrete che spettacolo! Anche il gelso, come altre piante di cui abbiamo parlato di recente, non ha bisogno di particolari cure, ma attenti che il bacco da seta non è l'unico bruco interessato al gelso. Altre specie di lepidotteri che prendono di mira la vostra pianta potrebbero defogliarla. Con Moreno Grati, che ci cura la rubrica delle api, siamo arrivati al prodotto principe dell'alveare, ovvero il miele. Ma serve dire innanzitutto che cos'è il miele. La composizione del miele è notevolmente complessa, comprende zuccheri, circa l'80%, acqua, dal 17 al 20%, e sali minerali, fino all'1%. Più miele scuro e più sali minerali possiede, tra questi in prevalenza potassio, acidi organici ed altre sostanze minori, ad esempio enzimi. Gli zuccheri, in particolare fruttosio e glucosio, rappresentano quasi tutta la parte dell'alimento e contribuiscono in modo rilevante a determinare numerose proprietà fisiche e alimentari, fra le quali viscosità, stato fisico, liquido o cristallizzato, valore energetico e potere dolcificante. Relativamente allo stato fisico, solido o cristallino, vale la pena sottolineare che tale caratteristica dipende dal rapporto che vi è tra i due zuccheri maggiormente presenti, ovvero fruttosio e glucosio. Se prevale il fruttosio, un miele rimane liquido. Viceversa, se prevale il glucosio, un miele cristallizza. Maggiore sarà il rapporto a favore del glucosio, più rapida sarà la cristallizzazione. Pertanto la cristallizzazione è un fenomeno naturale del miele e non significa che vi è stato aggiunto zucchero, come talvolta si crede, ed è sinonimo di genuinità del prodotto. Nel miele il ridotto contenuto in acqua e l'acidità elevata contribuiscono a determinare una notevole stabilità nel tempo. Tuttavia il prodotto deve essere conservato in maniera opportuna, ovvero a riparo da fonti di calore e dalla luce. In un miele ben conservato l'attività enzimatica non ha mai termine e con il trascorrere dei mesi inizia un processo di invecchiamento che con gli anni modifica le caratteristiche chimiche ed organolettiche del miele, deprezzandolo. I diversi mieli si differenziano nel colore, nella consistenza, nel sapore e nell'aroma in relazione alla specie botanica su cui le api hanno bottinato il nettare. Il valore energetico di 100 g di miele è di circa 320 calorie, inferiore a quello dello zucchero comune, che ne ha 400. Inoltre, gli zuccheri maggiormente presenti nel miele, fruttosio e glucosio, sono zuccheri semplici e quindi facilmente assimilabili dall'organismo umano. Il miele non deve essere considerato un farmaco, ma un alimento ideale nella dieta giornaliera, capace di fornire energia prontamente disponibile per l'organismo. Seguendo il libro Amici Alberi, che un po' guida questa rubrica, oggi con l'architetto Roberto Barocchi siamo arrivati a parlare dei maltrattamenti degli alberi. Nel vostro libro c'è un capitoletto intitolato Non maltrattiamoli. Di cosa si tratta? Ci sono vari modi di trattare male gli alberi ornamentali. Potarli troppo e quando non serve, piantarli troppo vicini fra loro ai muri delle case, non consentire che le radici assorbano la giusta quantità d'acqua. Un altro modo di maltrattarli è collocare condutture interrate troppo vicine agli alberi, per cui negli scavi si devono tagliare delle radici. Meglio collocare le condutture lontane, considerando che un apparato radicale ha un diametro spesso maggiore di quello della chioma, per cui si possono trovare radici di alberi anche a vari metri dal tronco. Se si deve scavare fra le radici, bisogna farlo con cura, possibilmente asportando il terreno con un aspiratore e tagliando le radici il meno possibile e con ferri affilati e non appicconate. Sarebbe bene poi collocare sotto le strade dei tunnel tecnologici delle gallerie che porterebbero tutte le condutture, salvo quelle del gas che devono restare interrate, così per ripararle non si dovrebbe più scavare. Ci sono altri danni? Durante i lavori stradali bisogna coprire i tronchi degli alberi per evitare che vengano danneggiati. Si coprono i tronchi con del geotessuto e poi con delle tavole di legno. Le tavole assorbiranno i colpi e il geotessuto impedirà che le tavole, spostandosi a causa dei colpi, scortecino l'albero. Bisogna poi evitare di appoggiare o fissare gli alberi tettoi o cavi per stendere la biancheria o per l'illuminazione. Gli alberi hanno bisogno di crescere e quindi non si deve, ad esempio, legarli strettamente o con fili di ferro. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 27,30 e 27,50 euro al quintale, IVA esclusa. L'orzo peso specifico 62,65 tra 27,30 e 27,70. Il frumento tra 28,90 e 29,40 e la soia tra 61,30 e 61,80. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 5 euro e la soia di 12,50 il quintale. Modeste contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi costanti. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,40 e 1,50 euro il chilogrammo IVA esclusa. La scarola riccia tra 2,50 e 2,80. Il radicchio rosso tondo tra 1,50 e 1,60. Quello di Treviso precoce tra 1,60 e 1,80. I carciofi mamme romane da 0,90 a 1,30. I kiwi da 2,50 a 4 euro. Le arance navel da 0,80 a 1,30, quelle tarocco da 1,10 a 2 euro. Nel settore della pesca, a causa le temperature non ottimali, i prezzi sono leggermente in crescita. La cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 18 a 30 euro il chilo IVA esclusa, le sogliole da 6 a 23, le ombrine da 10 a 30, le canoce da 4 a 16, le orate da 5 a 18. I calamari e i calamaretti da 20 a 28, le sepie da 10 a 17 e i rombi da 22 a 30. Infine, nel settore degli avi cunicoli si segnalano ancora scambi attivi con prezzi diversificati. I polli a terra vengono pagati tra 1,64 e 1,66 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 3,26 e 3,30, i tacchini maschi tra 2,10 e 2,12, le faraone tra 3,30 e 3,40 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 17,80 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Dopo lunghe settimane dominate dall'alta pressione, con carenza pressoché totale di precipitazioni, il flusso atlantico ha ripreso a farsi sentire con il passaggio di alcuni fronti in sequenza, il prossimo dei quali passerà domani con fenomeni limitati. Ci aspetta quindi un lunedì con cieli nuvolosi e qualche pioggia, debole e moderata, deboli nevicate oltre gli 800 metri circa. Il miglioramento del pomeriggio si consoliderà martedì, con cielo sereno e poco nuvoloso, ma con raffiche di vento da nord a nord-ovest forti in quota, sostenuti a tratti anche a fondo valle in pianura. Le temperature minime scenderanno con qualche gelata anche in pianura. Poche nubi sono previste anche mercoledì, con vento in attenuazione. Farà ancora fresco di mattina, con locali gelate anche in pianura. Le temperature massime, complice un soleggiamento ormai sempre più incisivo, raggiungeranno i 15 gradi. Giovedì una pausa più convintamente anticiclonica determinerà la comparsa delle inversioni termiche e forse qualche annuvolamento. Escursione termica in diminuzione, quindi minime in aumento e massime in calo. Venerdì e sabato potrebbe passare un nuovo fronte atlantico con delle precipitazioni associate a un moderato calo delle temperature, con possibilità di neve fino a fondovalle e di bora su pianura e costa. Come sempre, raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Santa Agnis Oris Dis, ovvero il giorno di Santa Agnese, il 21 febbraio, il giorno dura 10 ore. In verità dura 10 ore e 41 minuti. 10 ore tonde le abbiamo avute l'8 febbraio. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.